L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Benvenuti alla seconda puntata speciale dell'ottavo giorno dedicata ai fatti e ai personaggi del 2009. Sabato scorso, 26 dicembre, ci siamo concentrati sulla politica, quindi praticamente su tutto quello che ha fatto Berlusconi o è successo attorno al Presidente del Consiglio. Abbiamo parlato del terremoto in Abruzzo, abbiamo fatto una sventagliata sulle principali iniziative, i principali avvenimenti dell'economia mondiale e abbiamo chiuso con lo sport targato 2009. Oggi ci sono altri eventi su cui spendere sicuramente qualche ricordo e qualche riflessione. Cominciamo purtroppo da un evento tragico che peraltro in un anno nel quale in Italia le tragedie non sono certo mancate, abbiamo già ricordato il terremoto in Abruzzo, ma ricordiamo almeno anche l'alluvione di Messina. Questa tragedia che stiamo per raccontarvi ha un posto purtroppo speciale. Sto parlando dell'incidente ferroviario di Viareggio. Torniamo alle 23:48 di lunedì 29 giugno. Sentiamo la cronaca di Micaela Nasca dell'incidente che ad oggi è costato più di 30 vittime. No! No, guarda lì! No, deragliato no! Oddio! La reazione di alcuni ragazzi testimoni dell'esplosione finisce subito su YouTube. Mancano pochi minuti a mezzanotte. Il treno merci 50-325 Trecate-Gricignano, con il suo convoglio di 14 vagoni carichi di gas, arriva in prossimità della stazione di Viareggio. La ferrovia corre in mezzo ai palazzi, costeggia via Ponchielli. Cede il carrello del primo carro cisterna, che trascina fuori dai binari altri 4 vagoni. Solo da uno fuoriesce il gas. Pochi secondi e salta in aria. Il sindaco di Viareggio, Luca Lunardini, è tra i primi a raccontare a Radio 24 ciò che ha visto. Ero in quel momento al mio computer con la finestra aperta e guardavo proprio nella direzione dell'esplosione, estremamente violenta, una specie di piccolo fungo di fuoco. Le fiammate investono i palazzi e la strada, una palazzina si sbriciola, un'altra prende fuoco, alcune persone restano coinvolte nell'esplosione e c'è chi si ferma a prestare aiuto. Sono andato a dare una mano, a tirare un po' di gente fuori da sotto le macerie, roba da non riuscire a dormire. Uno era con la gamba sotto le macerie, siamo riusciti a tirarlo fuori col separatore che ha alzato le macerie, un macchinario. Questa era la ricostruzione fatta dalla redazione di Milano a caldo nelle ore seguenti all'incidente, alla tragedia di Viareggio, mentre sul campo inviata della radio era Raffaella Calandra, che è in collegamento con noi. Buongiorno Raffaella. Buongiorno Emiliano. Allora Raffaella, ti chiedo uno sforzo così, non credo felicissimo, cioè di ricordare quella che è stata la prima immagine, la prima fotografia che hai colto di Viareggio e di via Ponchielli, la via annientata dall'esplosione, quando sei arrivata lì poche ore dopo la tragedia. Viareggio e via Ponchielli il giorno stesso era come una città dove esplosa una bomba, dove a un certo punto c'era un silenzio in una città di vacanza e nel cuore delle vacanze un fuggi-fuggi generale dagli altri quartieri intorno alla zona chiusa dopo l'incidente, ma l'immagine più forte che credo chiunque sia stato in quella zona porta con sé è quella proprio della strada dell'incidente, via Ponchielli. Quando il mattino successivo, nelle prime ore della mattina, siamo riusciti ad entrare in questa area chiusa che era appunto sotto controllo delle forze dell'ordine, sembrava di entrare all'interno di una galleria, tanto erano bruciate e annerite le facciate dei palazzi di via Ponchielli, e tutto era bruciato e tutto era buio e dalle finestre aperte e sventrate dal fuoco della notte precedente si vedevano e si percepivano quegli squarci, diciamo, di quotidianità che erano stati bruciati in questa enorme fiammata che il gas aveva gettato sulle case e sulle famiglie di tutte quelle persone. Si vedeva nella pineta i resti di un picnic finito drammaticamente, si vedevano le macchine bruciate all'interno delle quali abbiamo poi ricostruito, era morta una bimba, si sono ricostruiti passo dopo passo, pezzo dopo pezzo le storie di tante famiglie che sono state distrutte anche proprio interamente in quel giorno, la storia del bimbo marocchino che per salvare e soccorrere la sorellina morì in quelle fiamme, la storia della mamma che morì con con uno dei figli mentre l'altro figlio si riuscì a salvare, famiglie che si sono spaccate a volte anche per questioni di pochi secondi, ma l'immagine di degli alberi e delle facciate arse, completamente annerite dal fuoco di quella notte, credo che sia l'immagine più forte di quella tragedia. Ecco, tra l'altro uno dei personaggi simbolo, suo malgrado, di questa tragedia è stato il piccolo Leonardo Piagentini, un bambino che nel rogo ha perso sia la mamma che i due fratellini e invece pochi giorni fa ha potuto riabbracciare il padre che era rimasto ferito nella tragedia. Piagentini, Leonardo, il piccolo Leonardo, era presente al funerale il 7 di luglio, pochissimi giorni dopo la tragedia. Tu, Raffaele, eri lì a vedere questo spettacolo struggente e terribile, uno stadio pieno di gente in questa Viareggio Lunare, che pur essendo un giorno d'estate vedeva i negozi chiusi e le spiagge svuotate, e tu hai ascoltato anche il Presidente della Repubblica Napolitano. Ecco, Leonardo commosse proprio il Presidente della Repubblica, che venne per i funerali di Stato a Viareggio, non era nello stadio, era in ospedale, e da lui il Capo dello Stato volle andare una volta terminato. Leonardo gli regalò un disegno, e anche per la commozione forte di questo incontro, oltre che per il dramma di tutte queste vittime di una città intera che era stata così profondamente colpita, il Capo dello Stato rinnovò il suo appello per indagini che portassero a verificare e a capire che cosa fosse successo. Raffaella, tu hai citato le indagini, che sono una parte naturalmente importante, imprescindibile di questa storia. È sicuramente un dovere accertare le colpe dirette e indirette dell'incidente, fermo restando che poi a monte c'è un interrogativo gigantesco che tutti ci dobbiamo porre, cioè com'è possibile che una ferrovia passi così vicino, praticamente tagli in due delle vie densamente popolate nel centro di una città, o se volete, per dirla al contrario, perché dei palazzi sono stati costruiti così vicino alla stazione. Torniamo però alle indagini. Nei primi giorni sinceramente c'è una sorta di rimpallo di responsabilità tra le ferrovie, chi si occupava della manutenzione dei vagoni, chi gestisce la rete ferroviaria. Sentiamo un servizio proprio di quei primi giorni a caldo di Alessio Maurizi. Il treno che ha causato l'incidente a Viareggio aveva un locomotore italiano e 14 vagoni stranieri pieni di GPL. Poco prima della stazione le scintille, il treno rallenta, i primi 4 vagoni deragliano e scoppia l'incendio. La causa, la rottura di un asse, come spiega l'amministratore delegato di Trenitalia Mauro Moretti. L'asse di un primo carro si è spezzato e quindi è una specie di sedimento strutturale che rappresenta uno degli eventi importanti delle revisioni, e sono fatti naturalmente dai proprietari. Nei longheroni che vedete ci sono anche le scadenze di cosiddetta revisione, e dalle scadenze sappiamo che erano in perfetta regola. A rompersi è uno dei vagoni cisterna di una società americana con sede a Vienna, immatricolata in Germania. Delle bombe a orologeria, denuncia Stefano Boni della CISL Trasporti Toscana. Io mi sento di chiamarle bombe a orologeria perché se trasportano materiale pericoloso, come è successo anche l'altro giorno a Prato, questi trasportavano gas. Noi qualche controllo dobbiamo fare, perché sennò altrimenti si rischia veramente di prendere qualsiasi cosa e poi succede quel che succede. Intanto il ministro delle Infrastrutture Matteoli annuncia una commissione d'inchiesta per verificare se l'incidente ha delle responsabilità. Raffaella Calandra, sempre in collegamento con noi, abbiamo pochi secondi, ti lascio l'ultima battuta. Detto che le ferrovie hanno annunciato il via ai risarcimenti alle famiglie delle vittime, secondo te si arriverà mai a trovare un colpevole? Lo hanno promesso, lo ha chiesto il Capo dello Stato, non sono indagini facili perché, come sentivamo, ci sono tante voci e tante persone chiamate come possibili parti in causa di questa complessa inchiesta, però è una promessa che all'epoca, davanti a quelle bare di Viareggio, le più cariche dello Stato hanno voluto fare all'Italia intera, e la magistratura di Lucca lo ha garantito, quindi siamo fiduciosi. Grazie a Raffaella Calandra. L'ottavo giorno. Together you represent the harmony between tradition and progress. I'm grateful for your hospitality and the hospitality of the people of Egypt. And I'm also proud to carry with me the goodwill of the American people. And a greeting of peace from Muslim communities in my country. Assalamu alaikum. Era il timbro inconfondibile della voce di Barack Obama mentre pronuncia l'espressione musulmana Salam aleikum, la pace sia con voi, all'Università del Cairo, dove Obama il 4 giugno tiene un discorso che viene subito accolto da grande entusiasmo e viene salutato come l'inizio di una nuova stagione all'insegna della mano tesa verso il mondo arabo e il mondo musulmano, in controtendenza con l'epoca di Bush e dei neocon. Indiscutibili sono naturalmente l'abilità retorica e il grande fascino di Obama anche al Cairo, così come è indiscutibile che Obama sia stato nel 2009 l'uomo dell'anno sulla scena internazionale. Ma è anche vero, bisogna ricordarlo, che in politica estera e a maggior ragione in politica interna, vista la crisi economica che tutti conosciamo degli Stati Uniti, oltre alle belle parole, alle promesse, alle speranze, Obama ha dovuto far fronte a tante situazioni di crisi concrete, dall'Iran all'Afghanistan. Eppure, anche questo va ricordato, proprio per il discorso del Cairo e forse ancora di più per l'impegno che ha messo in campo sul disarmo nucleare e per il nuovo corso che ha avviato sulle prigioni di Guantanamo, a dicembre Obama ha ritirato il Nobel per la pace ad Oslo. Ma cominciando il racconto di questo 2009 nel mondo, in quella che è la pagina degli esteri, comunemente nei giornali, cominciamo proprio dall'operazione Piombo Fuso, ovvero l'operazione militare di guerra lanciata da Israele contro Hamas nella striscia di Gaza. L'operazione scatta in realtà la mezzanotte del 28 dicembre del 2008 e si conclude più o meno alla stessa ora del 18 gennaio. Il casus belli è piuttosto futile, se vogliamo, perché è la fine della tregua violata da Hamas e il lancio di razzi sempre da parte di Hamas su Israele, ma in realtà appunto sono semplici pretesti perché la situazione è in bilico ormai da tantissimo tempo. Molte sono le cronache in quei giorni a Radio 24, ne ascoltiamo una di Cristina Balotelli, firmata il 15 gennaio. Israele lancia la fase 3. Dai velivoli con la stella di David piovono su Gaza volantini in cui si dice che le forze armate stanno per entrare in una nuova fase nella lotta al terrorismo. E fonti militari annunciano che fino ad oggi sono stati uccisi 550 miliziani di Hamas. I razzi Qassam, però, e i missili Grad sono caduti lo stesso sulle cittadine israeliane del sud. Da Damasco il leader politico di Hamas, Khaled Meshal, ha ribadito che il suo movimento non accetterà mai una tregua se Israele non porrà fine alla propria offensiva e non riaprirà i valichi con Gaza. Così, per i civili di entrambe le parti, è stata ancora una giornata di paura e di corse verso i rifugi. Al Cairo si cercano soluzioni. Il presidente dell'autorità palestinese, Abu Mazen, che a Gaza è stato deposto da Hamas, chiede l'immediato cessate il fuoco e l'invio di una forza internazionale di pace. Ipotesi sulla quale si è soffermato anche il ministro Frattini. Una forza che non dovrà essere in territorio egiziano, dovrà essere in territorio palestinese. L'Italia è pronta a contribuire. Come ho ricordato anche prima, il 17 gennaio è l'ultimo giorno di guerra, poi arrivano il cessate il fuoco unilaterale di Israele e la fulminea estemporanea conferenza di pace organizzata a Sharm el Sheikh, dove di fatto l'ONU mette il cappello sulla tregua tra le parti. L'operazione del Piombo Fuso, bisogna ricordarlo, lascia molti segni sul campo, ci sono naturalmente le vittime che sono tante e sono diverse poi le cifre a seconda che i conti le facciano gli israeliani o i palestinesi, si va dalle decine di morti alle migliaia addirittura di morti, poi ci sono i tantissimi sfollati, quelli che restano senza casa, ci sono le polemiche sull'uso del fosforo bianco da parte di Israele che di fatto riceve complessivamente un po' critiche da tutte le parti, insomma rispetto ad altre guerre, ad altre iniziative militari, si fa fatica in questo caso da parte della comunità internazionale ad accettare l'iniziativa israeliana. Anche il Papa usa parole molto dure, molto forti in quei giorni, e poi ricordo anche un'infuocata trasmissione di Anno Zero con Lucia Annunziata che lasciò imbufalita lo studio di Santoro. Su queste premesse e sulle macerie dell'operazione Piombo Fuso, Israele va al voto poche settimane dopo, esattamente a febbraio, con il partito della Livni, Kadima, che vince le elezioni sul piano numerico, ma in realtà la coalizione di destra ottiene la maggioranza e quindi Netanyahu, leader del Likud, diventa premier e l'ultranazionalista Avigdor Lieberman, molto discusso in patria e anche fuori, diventa ministro degli esteri. Facciamo adesso un altro passo indietro, torniamo a gennaio, a pochi giorni dopo la fine del raid di Piombo Fuso, perché il 20 di gennaio Obama giura come 44esimo presidente degli Stati Uniti. È un giorno di festa, un giorno che entrerà nella storia. Obama è anche piuttosto emozionato perché addirittura si inceppa ad un certo punto del suo discorso, sbaglia un passaggio, ma nulla di grave naturalmente. C'è una folla oceanica ad applaudire il primo presidente nero degli Stati Uniti a Washington, c'è Michelle sgargiante al suo fianco con un abito giallo-verde. Sentiamo la cronaca di quel giorno di Sergio Nava. I can't treat stato il volano musicale di Aretha Franklin a introdurre lo storico giuramento e discorso di Barack Obama, 44esimo presidente degli Stati Uniti. Nemmeno 20 minuti scritti a quattro mani col 27enne speechwriter Jon Favreau per lanciare un messaggio di rinnovamento all'America. We gather because we have chosen hope over fear. Abbiamo scelto la speranza rispetto alla paura. Barack Obama ha abbracciato le sfide che attendono la sua presidenza. Lo ha fatto non prima di aver ringraziato il predecessore George Bush. Ringraziamento di cortesia, anche perché nei minuti successivi il neo presidente ha di fatto demolito le teorie che hanno guidato gli ultimi 8 anni. We are in the midst of crisis. Obama ha prima inquadrato lo stato di crisi in cui versano gli Stati Uniti per ricordare immediatamente dopo la grandezza dei padri fondatori. Idealmente ha collegato il loro viaggio a quello degli americani degli anni 2000, rinnovando l'invito a darsi da fare. We must pick ourselves up. Infrastrutture, investimenti nella digitale e nelle nuove tecnologie, formazione scolastica e sanità, energie pulite. In poche righe Obama ha riassunto le priorità del suo mandato. Il neo presidente resta convinto della bontà del libero mercato, ma chiede maggiore controllo. In politica internazionale Obama ha le idee chiare. We are ready to lead once more. Siamo pronti a guidare ancora il mondo. Obama ha ricordato l'Iraq e l'Afghanistan, tendendo la mano al mondo islamico, senza però abbassare la guardia contro il terrorismo. Il messaggio finale, un messaggio di unità a un paese in crisi, è chiaro. What is required of us now is a new era of responsibility. Da noi ci si attende una nuova era di responsabilità. Dopo il pranzo al Congresso, Obama e la moglie Michelle, insieme alla coppia vicepresidenziale, hanno percorso Pennsylvania Avenue per la tradizionale parata di insediamento alla Casa Bianca. President Barack Obama. I nuovi vertici americani hanno camminato per un tratto, salutando la folla festante. Abbiamo aperto questo spazio ricordando il discorso del Cairo di Obama del 4 giugno. È sicuramente il segno evidente che il mondo arabo e musulmano sono stati centrali fin dall'inizio nel percorso di Obama alla Casa Bianca. E non a caso in questo 2009 l'Iraq, ma soprattutto l'Iran e l'Afghanistan sono al centro di fatti eclatanti e di grandi manovre. Cominciamo dall'Iran, perché il 12 giugno si vota, bisogna scegliere il nuovo presidente e il presidente uscente Ahmadinejad vince le elezioni, ma fin da subito emergono molti dubbi sulla limpidezza del suo successo. Per capirlo basta riascoltare l'inviato del Sole 24 Ore Alberto Negri a poche ore proprio dalla prima proclamazione di Ahmadinejad, che non sarà poi neanche l'ultima. Mai un presidente uscente aveva perso quando si era ripresentato per il secondo mandato, e anche questa volta è stato così. La Repubblica Islamica è evidentemente affezionata alle statistiche, probabilmente un po' meno, anzi forse molto meno, alla precisione dei conteggi elettorali, perché la marea di votanti che ieri si era recata alle urne sembrava in gran parte che appoggiasse il candidato rivale di Ahmadinejad, Mir Hussein Mousavi. Che cosa è successo? È successo che in realtà Ahmadinejad, con l'appoggio della guida suprema Khamenei, è probabilmente riuscito, avendo il potere, a manovrare il voto. In qualche modo la sovranità religiosa ancora una volta ha prevalso sulla sovranità popolare. L'opposizione in Iran, guidata da Mousavi, si mobilita rapidamente dopo i primi risultati. Anche a livello internazionale si crea un certo movimento a sostegno di quella che viene ribattezzata l'onda verde di giovani, soprattutto, e di studenti universitari che si riversano nelle strade di Teheran anche in questi ultimi giorni del 2009. Ahmadinejad e la guida suprema Khamenei, che in fondo neanche troppo velatamente fa il tifo per Ahmadinejad, accusano l'Occidente di tramare nell'ombra. Il venerdì successivo alle elezioni Khamenei addirittura dirige in prima persona la preghiera, ed è un fatto eccezionale. Ma i cortei di protesta non si fermano, superano anche i confini della censura grazie ad internet e anche a delle riprese estemporanee, persino rischiose, con i telefonini. E poi c'è la morte, catturata da un cellulare, di Neda Soltani, la studentessa di filosofia in piazza mentre protestava, che fa il giro del mondo e diventa il simbolo di quei giorni in Iran. Sentiamo sui moti di piazza un servizio di Cristina Balotelli il 18 giugno. Migliaia di sostenitori di Mousavi, alcuni vestiti di nero in segno di lutto per i morti dei giorni scorsi, sono scesi in piazza a Teheran per il sesto giorno consecutivo. La maggior parte dei giornalisti stranieri hanno dovuto abbandonare l'Iran per il mancato rinnovo del visto. Così i social network e YouTube sono diventati possibili luoghi di informazione, con le dovute riserve. Su YouTube si trovano i video di manifestazioni, rivolte, botte e disordini. Il grosso della protesta continua comunque ad avvenire nelle strade, nelle piazze e nelle università delle grandi città, soprattutto Teheran. Sfidando l'apparato di sicurezza, i manifestanti sanno che rischiano grosso. Ieri è arrivato dalla magistratura il divieto d'espatrio a due figli di Rafsanjani, sotto inchiesta per aver avuto un ruolo negli incidenti di questi giorni. Rafsanjani, che è uno degli uomini più potenti dell'Iran, è considerato tra i principali sostenitori dell'ex candidato Mousavi. Altro paese caldissimo nel 2009 è l'Afghanistan, la guerra è in corso ormai da 8 anni, praticamente il giorno successivo alla caduta delle torri gemelle di New York. Nel 2009 c'è stata sicuramente una recrudescenza, un'accelerazione nelle offensive degli alleati e anche nei contrattacchi dei talebani, tanto che l'1 dicembre, quindi pochissimi giorni prima di andare ad Oslo per ritirare il Nobel, Obama annuncia l'invio di 30.000 soldati in più, come peraltro chiedevano insistentemente i capi militari americani. Che poi in parte è bilanciato da quello invece di una prima ufficiale data dell'inizio del ritiro dall'Afghanistan, che viene fissata da Obama al 2011. Il 20 agosto, in questo clima molto incerto, molto infuocato, con molta tensione, si vota anche in Afghanistan, quindi non solo in Iran come abbiamo sentito. Karzai vince con il 56,6% dei voti, ma lo sfidante Abdullah denuncia dei brogli. E così il 20 ottobre, dopo un lungo, laborioso riconteggio, Karzai ottiene un risultato diverso, cioè sotto il 50%, quindi si deve andare al ballottaggio, che viene proclamato per il 7 novembre, ma all'ultimo Abdullah si ritira dalla corsa e così, senza più avversari, Karzai giura per un nuovo mandato il 12 di novembre. Ma l'Afghanistan tocca da vicino anche gli europei e noi italiani. Il 3 di settembre a Kunduz, siamo nel nord del paese, i tedeschi ordinano un attacco in massa ai talebani che fa una carneficina, 142 morti, ma molti purtroppo sono anche dei civili. Questo crea delle polemiche ferocissime in Germania, dove ci sono dimissioni a catena sia dei vertici militari che politici. Invece l'Italia paga il suo doloroso prezzo salatissimo il 17 settembre. Esplosione poco fa per le strade di Kabul, ci sarebbero 6 morti, fra questi anche degli italiani. Le informazioni al momento sono davvero pochissime. Secondo i giornalisti dell'AFP sul posto, la fortissima esplosione che ha scosso il centro di Kabul, di origine ancora non chiarissima, la televisione afghana Tolo di Kabul ha messo in onda delle immagini relative all'attentato che mostrano un mezzo italiano Lince danneggiato nella parte interiore. Pochissimi istanti fa la conferma che appunto ci sarebbero anche delle vittime italiane. Purtroppo la breaking news di Maria Piera Ceci in quella mattina di giovedì 17 settembre trova subito conferma nei fatti. Sono infatti 6 i para uccisi in un attacco kamikaze a Kabul che scatta alle 9:40 ora italiana. Ci sono 2 autobombe che colpiscono 2 blindati italiani e nell'esplosione muoiono anche 15 civili afghani. L'Afghanistan naturalmente avrà anche gli occhi puntati di tutto il mondo, soprattutto l'anno prossimo. Abbiamo parlato prima dei 30.000 soldati in più che Obama manderà in quel paese, ma ci sono anche migliaia di soldati della NATO, tra cui anche gli italiani, che quindi non si sono fermati nonostante il dolore per i 6 para uccisi. Lo ha anche ricordato lo stesso Obama nel suo discorso per il Nobel, dove ha ribadito il principio della guerra giusta. L'ottavo giorno. Eluana Englaro è morta nella clinica La Quiete di Udine. È passato quasi un anno ormai dalla sera di lunedì 9 febbraio che chiude la lunga sofferta storia umana, storia terrena di Eleonora Englaro, ma non il suo caso, che in fondo rimane ancora aperto in questi giorni. Ricordo rapidamente che la sua storia terribile iniziò nel 92, quando Eluana aveva soltanto 21 anni e dopo un incidente in auto finì in coma e poi in stato vegetativo permanente fino al momento della sua morte. Da quel momento il padre Beppino iniziò una personale battaglia giuridica, ma se vogliamo anche etica, per ottenere la sospensione del trattamento che la teneva in vita, ma non come molti fanno, forse anche in tante cliniche italiane, nel silenzio e senza che un giudice o un giornalista se ne accorga, cioè accompagnare alla morte i cari che sono in stato di coma permanente, ma appunto voleva l'avallo a tutti i costi di un giudice. Dopo tantissimi anni passati tra un tribunale e l'altro, compresa la Corte Europea dei Diritti Umani, l'ultima parola della legge arriva il 26 gennaio del 2009 con il TAR della Lombardia che dà definitivamente ragione a Beppino Englaro, e da quel momento si mette in moto un meccanismo inarrestabile, vorticoso. Il 3 febbraio di notte però c'erano le telecamere della televisione ad immortalare il momento. Eluana viene trasferita da Lecco, dove era stata dal 92, alla clinica La Quiete di Udine, dove verrà appunto accompagnata alla morte, morte che sopraggiunge il 9 di febbraio, appunto come abbiamo ricordato. Direi che è stato un caso lacerante che ha colpito, emozionato, sconvolto, diviso gli italiani. Vorrei chiedere su questo un parere a Carlo Marroni, cronista politico e vaticanista del Sole 24 Ore, nostro amico ormai dell'ottavo giorno, che è qui in studio e che ha seguito da vicino proprio quei concitati giorni finali di Eluana Englaro. Buongiorno intanto. Buongiorno a voi, buongiorno a te Emiliano. Sì, in quei giorni evidentemente ci fu una serie di eventi che si accavallarono, sia di carattere privato, personale, tragico della famiglia Englaro, ma anche politico, e in questo caso coinvolse anche il Vaticano. Sappiamo che la Chiesa Cattolica spinse in tutti i modi affinché non vi fosse questa soluzione, appunto, di togliere l'idratazione, e la CEI, insomma, il Vaticano stesso influirono. E sappiamo come reagì il governo italiano. In quel momento ci fu prima il governo Berlusconi voleva fare un decreto legge per bloccare questa la volontà di togliere l'idratazione. Poi sappiamo che il Quirinale intervenne per bloccare questa iniziativa e fu trasformato in un disegno di legge che Berlusconi voleva far approvare nel giro di pochi giorni, forse 2 o 3 giorni al massimo. Mi ricordo che in quei giorni seguì la vicenda e sappiamo che Berlusconi volle fortissimamente questa iniziativa, e sappiamo che disse la mattina del Consiglio dei Ministri del 6, quindi del venerdì, a Luana, quindi morì 3 giorni prima. Quando era arrivata la clinica alla quiete di e il giorno in cui fu sospesa l'idratazione, Berlusconi entrò in Consiglio dei Ministri un po' in ritardo, aveva convocato il ministro Sacconi, che fu l'autore, in quanto ministro della salute dell'epoca, ora non più, di scrivere il testo, e disse a tutti i ministri riuniti a Palazzo Chigi: questo è il decreto, questo faremo, chi non è d'accordo si dimette. E infatti parole forti, perché su questo Berlusconi fu irremovibile. Evidentemente, non so, forse possiamo fare solo delle congetture, se aveva dei sondaggi in mano che gli dicevano che questa cosa era evidentemente nella popolazione. Poi in realtà quel decreto non arrivò mai sul tavolo di Napolitano, non avevo mai il decreto, arrivò il disegno di legge in Parlamento. Naturalmente poi, quando la povera Eluana morì 3 giorni dopo, il decreto è entrato ancor più nelle pastoie della politica, è diventato oggetto di dibattito, infatti sta ancora lì, è stato approvato da una Camera e non dall'altra. Adesso ricordiamo anche quel decreto che si sovrappose inevitabilmente alla vicenda di Eluana. Ricordo che le collisioni tra la vicenda giuridica, giudiziaria di Eluana Englaro e la politica cominciarono anche prima, perché già a dicembre, quindi 2 mesi prima, c'era stata una circolare, un atto emanato dal ministro della salute Sacconi, che appunto voleva vietare alle strutture sia pubbliche che private italiane di sospendere l'idratazione e l'alimentazione dei pazienti che appunto si trovavano nelle condizioni di Eluana. Diciamo che i detrattori dell'iniziativa di Beppino Englaro credo sostenessero, insomma, che quella fosse una sorta di eutanasia mascherata. Credo che fosse questo poi il punto centrale della questione. La Chiesa, ma anche, diciamo così, quelli l'ala dura su questo fronte ha sempre detto che questa era un'introduzione surrettizia dell'eutanasia in Italia. Ci ricorderemo il caso Welby di 3 anni prima circa, quando di testamento biologico, la Chiesa chiama fine vita, alcuni lo chiamano testamento biologico, altri chiamano in altri termini, è un tema che è tornato di grande attualità in Italia negli ultimi 3 anni, grazie a causa del caso Welby. Però lì il caso era diverso, perché Welby era cosciente, fu lui a chiedere questa cosa. Lì poi, si ricorderete, le polemiche fu che la Chiesa di Roma all'epoca, il cardinale Ruini, non concesse i funerali religiosi, lui che era religioso, insomma, perché Welby era cattolico, vogliamo ricordare questo, esatto, passaggio. Ricordiamo allora che appunto la morte di Eluana arrivò nelle stesse ore in cui in Senato, la sera del 9 febbraio, si discuteva proprio del disegno di legge sull'idratazione e l'alimentazione nei casi appunto spinosi come quello di Eluana. Vediamo che cosa succede in questa ricostruzione di Vincenzo Miglietta. Si preannunciava come una lunga maratona notturna, un confronto dai tempi contingentati e per questo ancora più teso. Poi la notizia che scuote l'aula di Palazzo Madama è il minuto di silenzio chiesto dal presidente Schifani. Scusate colleghi, vorrei riportare l'aula a un minimo di compostezza anche per rispetto al momento che stiamo vivendo, al momento di dolore. È il ministro del welfare Sacconi a prendere poi la parola e, come rappresentante del governo, a chiedere tra l'altro che si vada avanti con il disegno di legge. Affinché questo sacrificio non sia stato inutile del tutto. Dalla commozione però si passa nel giro di pochi minuti ad una crescente tensione tra gli schieramenti, ad accendere la miccia alle parole del vice capogruppo del PDL Quagliariello. Eluana non è morta, Eluana è stata ammazzata. E per quel che ci riguarda lo diciamo noi, Non ci stiamo! Accuse ben precise quelle della maggioranza. In questa vicenda peseranno le firme messe e quelle non messe, aggiunge Gasparri. Chiaro il riferimento a Napolitano, pronta la replica del Partito Democratico, la Finocchiaro parla di ennesimo atto di sciacallaggio politico. Noi oggi vi diciamo che non siamo più disponibili se non ad un esame compiuto del testo, quello che è in commissione, della maggioranza e delle opposizioni. Io vorrei dire una cosa a corredo di questo servizio che abbiamo risentito di Vincenzo Miglietta, perché al di là di come la si pensi su un caso delicato, etico, morale, appunto come quello di Renan Grano, direi che in quei giorni la politica ha veramente mostrato il suo lato peggiore, ha fatto una bruttissima figura, perché abbiamo visto toni sopra le righe, iniziative di legge piuttosto raffazzonate, così costruite all'ultima ora proprio sull'onda emotiva dei fatti. Addirittura ci fu lo scontro con Napolitano che abbiamo anche ricostruito pochi minuti fa con Carlo Marroni. Si parlò di foto di Eluana ben diverse da quelle che ancora circolavano, risalenti a 17 anni fa, di Eluana viva e in forma, insomma, prima dell'incidente in auto. Qualcuno ipotizzò anche la possibilità che poteva avere figli. Insomma, Carlo, che vogliamo ricordare di quei giorni dal punto di vista della politica e della pessima figura fatta da tutti, destra e sinistra, non risparmio nessuno quasi nel conto. No, una grande tristezza profonda, perché la tragedia di un padre che aveva, insomma, gestiva la figlia, il coma di questa ragazza, che non era più quella delle foto naturalmente, ma anche forse nella sua mente era ancora viva più che mai, e questa era la sua battaglia, che noi, almeno io, ma anche te, chiedo, rispettiamo profondamente. È una battaglia civile, e probabilmente le cose buone nascono anche da battaglie coraggiose. Forse è stata eccessivamente strumentalizzata da tutti, e forse si è stato prestato troppo il fianco a trasformarla, come al solito, nell'arena politica. Anche perché poi cosa è successo? Quando la povera Eluana è morta e il dolore del padre si è trasformato così in un dolore diverso e lungo, la legge non è mai nata. Ma secondo te nascerà una legge? Cioè la vicenda di Eluana diventerà un po' come quella, tanto per fare un paragone non proprio identico, ma insomma per far capire, della vicenda Roe e Wade, cioè che negli anni 70 divenne poi il caso che determinò la legge sull'aborto negli Stati Uniti. Sì, se la legge però è rispettosa di tutte le idee che ci sono nel paese, non solo di alcune, perché se la legge deve essere una legge liberticida in tutti i sensi, cioè o troppo liberale o troppo poco, beh, allora insomma, ecco, speriamo di no, perché se no può darsi che la cura sia peggio del male. Ricordiamo che il caso Eluana, che tra l'altro vivrà ancora tra poche settimane, perché Povia porterà una canzone a Sanremo ispirata alla vicenda di Eluana, a suo tempo, nei giorni appunto in cui morì, ebbe anche uno strascico televisivo, perché ci furono le dimissioni fragorose di Enrico Mentana, che conduceva Matrix, nel momento in cui Mediaset si rifiutò di organizzare al volo lunedì, proprio pochi istanti dopo la morte di Eluana, una puntata speciale di Matrix, e preferì mandare in onda regolarmente Il Grande Fratello. Sentiamo il racconto di Marta Cagnola. Mi caccino pure, ma non usino cavilli. A 48 ore dalla sfuriata e dalle dimissioni immediatamente accettate da Mediaset, Enrico Mentana rompe il silenzio e lo fa con Giuliano Ferrara a Radio 24. Non esiste solo l'audience, dice, è una questione di credibilità. Una concorrente del Grande Fratello piangeva perché veniva cacciata dalla casa. In quel momento, quella cosa era intonata o stonata? Aggiungeva credibilità a chi la mandava in onda o la toglieva? E su Berlusconi? Tante volte ha rivendicato l'autonomia di Mediaset, questa volta sarebbe arbitrario in senso opposto, ricordate, certo. Però la cosa sta nel clima del paese, perché Berlusconi e il governo non hanno agito, come dire, a titolo personale, certo. O con un arbitrio a sua volta insostenibile. C'era un flusso emotivo che comunque pesava in quelle ore. Abbiamo ancora un paio di minuti in compagnia di Carlo Marroni, cronista politico e vaticanista del Sole 24 Ore. Allora vorrei approfittare della tua presenza, Carlo, per fare anche il punto sul 2009 della Chiesa e di Papa Benedetto XVI. Un anno, il 2009, che si è aperto con le polemiche sui lefebvriani riportati a casa, no? Cadde la scomunica del 1988, quindi di Giovanni Paolo II, alle febbre e i suoi seguaci, però anche qui ci furono polemiche sul vescovo negazionista Williamson, e paradossalmente l'anno si chiude con altre polemiche legate comunque sempre a Shoah, mondo ebraico, per l'annunciata beatificazione di Papa Pio XII. In mezzo segnalo tre viaggi all'estero, non tantissimi, di Ratzinger, che rispetto a Papa Giovanni Paolo II viaggia molto meno, forse anche di minor buon grado, però insomma due sono stati fondamentali, in Africa a marzo e a maggio in Terra Santa. Io ho fatto una sintesi estrema lascio a te naturalmente cadenzare queste cose che ho detto. No, sono viaggi, soprattutto appunto i primi due, il terzo fu a Praga, di grande significato. L'Africa si ricorderà purtroppo, solamente dico purtroppo perché tante cose sono state fatte in quel viaggio dove ero presente, si ricorderà per la polemica sui preservativi. Naturalmente il Papa e la Chiesa hanno detto molte altre cose. La Chiesa è presente in Africa con strutture che nessun'altra struttura non governativa c'è nel mondo, però tant'è che queste cose sappiamo come vanno. Ricordiamo cosa disse del preservativo. Disse la Chiesa fa molto contro l'AIDS, contro la piaga dell'AIDS, il preservativo non aiuta, anzi peggiora. Su questo fatto qua chiaramente tutti, ma anche i governi, ricorderete l'Unione Europea, il governo tedesco fu violento, il governo francese. Poi c'è la questione dei rapporti col mondo ebraico. L'anno si aprì con le critiche fortissime della Santa Sede a Israele per l'attacco a Gaza. Gaza fu definita un lager. Poi c'è stata la vicenda delle Fevriani col perdono del vescovo negazionista Williamson. E lì si arrivò veramente a un punto di crisi spaventosa. E il Papa per quello volle veramente portare in fondo il viaggio di maggio in Terra Santa, dove visitò il memoriale di Yad Vashem. Anche lì fu criticato perché non è stato. Lo criticano sempre. Criticano sempre. Ma, no, poi lui lo fa il Papa come sa farlo lui. Insomma, non è che deve farlo come lo sanno fare gli altri. Tutti ricordano Wojtyla. Nel caso specifico si arriva a Pio XII. Papa, quanto risulta, è arrivata questa decisione dopo una indagine profondissima sulla vicenda Pio XII. Sgombrato il campo sul fatto che lui non fosse un papa amico di Hitler, perché questo poi è stato definito Pio XII, ecco, dice basta, si fa la beatificazione, si va verso la beatificazione, anche se per esempio il 17 gennaio sappiamo che è prevista la visita alla sinagoga di Roma dopo 23 anni, dopo Giovanni Paolo II, e tutti dicono: ah, perché non ha aspettato? Perché alla fine l'agenda della politica non è l'agenda della Chiesa. L'agenda della Chiesa ha i suoi parametri, rispetta gli ebrei, ai suoi tempi e decide, insomma, poi ognuno decide quel che vuole. Benissimo, grazie a Carlo Marroni per questo ritratto del 2009 da Iluana a Papa Benedetto XVI. L'ottavo giorno. Ultima parte dell'ultima puntata sui fatti più importanti del 2009 e vogliamo chiudere con una incursione nel mondo dello spettacolo e dell'arte, un mondo vastissimo, però mi avvarrò di un traghettatore, anzi di una traghettatrice d'eccezione, ovvero Marta Cagnola della redazione appunto Spettacoli di Milano. Buongiorno Marta. Buongiorno e buon anno a Emiliano. Eh sì, siamo partiti insomma col piede giusto oggi 2 gennaio. Marta Cagnola, insomma la voce del cinema soprattutto, ma anche della musica, di tutto ciò che possiamo considerare showbiz, direi che insomma la notizia dell'anno nel mondo dorato spesso dello spettacolo è la morte di Michael Jackson. Credo che tutti siamo d'accordo, altrimenti Marta devo smontare la puntata, insomma dimmi tu subito. No, cosa purtroppo siamo d'accordo, perché il 25 giugno è successo veramente un avvenimento che ha cambiato il corso della musica e che ha toccato non solo i fan nel profondo. Diciamo che per qualche giorno il mondo ha parlato solo di Michael Jackson. Esatto, la notizia arrivò che in Italia era circa mezzanotte, insomma si stava passando il giorno. Allora sentiamo invece il servizio della mattina successiva firmato da Roberta Pellegatta. Michael Jackson è morto ieri a 50 anni in un ospedale di Los Angeles dove era stato ricoverato d'urgenza per un arresto cardiaco. Il re del pop era stato male a mezzogiorno nella sua residenza di Holby Hills ed è spirato un paio d'ore dopo. A nulla sono valsi i lunghi tentativi di rianimarlo. Oggi verrà effettuata l'autopsia e la polizia ha aperto un'indagine. Il nuovo tour mondiale, per il quale erano già stati venduti i biglietti per 85 milioni di dollari, sarebbe partito il 13 luglio da Londra, l'occasione per ritornare alla ribalta e anche per risolvere i suoi problemi economici. Secondo i media americani, infatti, Michael Jackson ha lasciato 400 milioni di dollari di debiti. Per ottenere prestiti aveva ipotecato i suoi beni più preziosi, il catalogo ATV Music, il famoso Ranch Neverland, la sua vita eccentrica, il processo per molestie sessuali, gli strascichi giudiziari, gli interventi per schiarire la pelle e per cambiare i lineamenti avevano prosciugato i guadagni ottenuti con la vendita di 750 milioni di dischi. L'ultima sua apparizione in pubblico a marzo per lanciare il tour. Solo due le parole che ha dedicato ai fan. Vi amo. Sono sempre in compagnia di Marta Cagnola e direi Marta che più che insomma mai come per la morte di Michael Jackson è scattata la regola del show must go on, dello spettacolo che continua, perché nel volgere di pochissime ore abbiamo visto subito la santificazione di Michael, poi il funerale che si è trasformato in uno show. Sono usciti inediti e naturalmente il film postumo, insomma da almeno una decina d'anni Michael Jackson era precipitato un po' in un baratro e invece la morte gli ha restituito una nuova luce. Che dici Marta? E devo dire soprattutto il film è stata un'esperienza scioccante perché è stato nei cinema solo 2 settimane e questo film raccontava le prove di questo tour di cui appunto dicevamo. Appare un Michael Jackson ancora bravissimo, molto in forma, con grandi capacità vocali e ovviamente tutto questo non si potrà mai sapere quanto è stato il frutto di manipolazione di montaggio. Certo è che per 2 settimane il re del pop è stato ancora vivo e comunque è andato a rinfoltire la schiera di quei miti, soprattutto quelli che sono scomparsi in giovane età, che appunto caratterizzano un po' il pop e il rock. E già, ricordiamo, Michael Jackson appena cinquantenne. Restiamo alla musica perché tra il 17 e il 21 febbraio, quindi torniamo indietro di quasi un anno, Sanremo ha celebrato la sua 59esima edizione, come sempre, dall'Ariston, dal mitico teatro appunto sanremese. Tu, Marta, hai assistito dal vivo alla vittoria di Marco Carta, già vincitore di Amici, con il brano La Forza Mia, che ti ricordi e che ci ricorderemo soprattutto negli anni di questo festival 2009. Ebbè, è stato il festival che ha sancito il successo di un vincitore di un talent show. Non so quanto a lungo sopravviverà questo genere e quindi noi magari tra qualche anno diremo ah sì, c'erano questi talent show e venivano fuori nuovi talenti, nuovi cantanti che addirittura vincevano Sanremo. Certo che siamo nel pieno di questo boom e Marco Carta ha vinto anche perché quest'anno Sanremo dava un'enorme importanza al televoto, quindi al voto da casa via telefonino. Le ragazzine che l'avevano fatto trionfare qualche tempo prima ad Amici l'hanno votato in massa, è stato premiato sul palco da Maria De Filippi, quindi con un cortocircuito tra Sanremo, talent show, Amici, Rai, Mediaset, qualcuno ha cominciato così a pensare a questa strana alleanza Raiset contro Sky sancita appunto sul palco del Festival di Sanremo. Certo è che appunto Marco Carta da lì ha cominciato un successo che poi è andato avanti perlomeno per tutta l'estate con ancora un paio di singoli e devo dire poi successo superato solo per quanto riguarda la categoria di quelli che scuola i talent show da Alessandra Amoroso, trionfatrice poi dell'Amici successivo, che ha ancora battuto i suoi record di vendita. Tra l'altro sicuramente quella di Marco Carta è stata anche un'operazione commerciale discografica, perché insomma ha ringiovanito un po' il pubblico di Sanremo che viaggiava così stabilmente negli ultimi anni verso gli 80 anni, diciamo così. Veniamo al cinema, Marta, che poi è il tuo pane quotidiano, e partiamo da quello che è sicuramente il più grosso scandalo dell'anno, ovvero quello che scatta il 26 settembre quando Roman Polanski, il grande regista polacco oggi di passaporto francese, viene arrestato in aeroporto a Zurigo sulla base di un mandato di cattura internazionale che poi a sua volta è legato ad una richiesta delle autorità americane. Il tutto riguarda una brutta storia che ormai risale a oltre 30 anni fa. Marta, ci ascoltiamo proprio un tuo servizio di quei giorni. La prima volta ne parlò nel 1987 in un'intervista a Diane Sawyer. Do you want to come back? I certainly would like to be able to go back. Can we start it again? I need a second. Roman Polanski era teso, chiese di ricominciare l'intervista da capo. Non aveva mai raccontato di quando, 10 anni prima, aveva costretto ad avere un rapporto sessuale con lui, Samantha Geimer, 13 anni, a Los Angeles, in una casa allora di proprietà dell'attore Jack Nicholson. I know now it was not the right thing to do, but there was no premeditation, you know, it was something that just happened. Ora so che non era la cosa giusta da fare, ma non ci fu premeditazione, semplicemente successe. La ragazza lo denunciò, lui riconobbe la sua colpevolezza, ma si difese dicendo che la giovane era consenziente. Fu condannato a 42 giorni di carcere, fu rilasciato con la condizionale, ma nel timore che i giudici lo condannassero a un ulteriore periodo di carcere, lasciò il paese. Da allora Polanski non è mai più tornato negli Stati Uniti, nemmeno quando vinse l'Oscar per Il pianista. The Oscar goes for Roman Polanski. Congratulates Roman Polanski and accepts this award on his behalf. La Francia e la Polonia, così come l'Associazione dei registi polacchi, chiedono ora la sua liberazione. La vittima dello stupro, che ora ha 45 anni, chiede che il caso venga chiuso, che le accuse siano ritirate e dice: anch'io sono diventata vittima delle azioni del procuratore. Il 25 di novembre poi il Tribunale federale di Bellinzona, quindi sempre in Svizzera, ha accolto il ricorso di Polanski, che adesso se ne sta nel suo chalet di montagna, seppure agli arresti domiciliari, e dopo aver pagato una cauzione bella consistente di 4 milioni e mezzo di franchi svizzeri, che su per giù, cambio la mano, dovrebbero essere tra i 2 e i 3 milioni di euro. Marta Cagnola, al di là del caso Polanski, in un minuto ce la fai a riassumere invece quello che nel 2009 può rientrare così nella casella premi e festival, ovvero Oscar, Cannes, Venezia e simili? Beh, insomma, Cannes, Nastro Bianco di Michael Haneke, un film importantissimo che noi abbiamo visto solo di recente nei cinema italiani, un film che parla di un periodo molto difficile, che parla degli anni in cui si preparava l'ascesa del nazismo. Per quanto riguarda Venezia, io vorrei ricordare soprattutto Tom Ford e Colin Firth, l'esordio al cinema di Tom Ford come regista, diciamo che è stato un esordio assolutamente inatteso per qualità, davvero un bel film questo A Single Man, con un attore che ha sbaragliato tutti, appunto Colin Firth. Invece Libanon, il vincitore a Venezia, un altro film che parla di un tema molto delicato, appunto una guerra che non bisogna dimenticare. E per quanto riguarda invece gli Oscar, come non ricordare lo straordinario The Millionaire, Slumdog Millionaire di Danny Boyle. Ha fatto incetta di premi, no? Un film che ha fatto incetta di premi, un film bellissimo che racconta la storia di un ragazzino che diventa campione di quello che da noi è chi vuole essere milionario, in maniera molto singolare, in maniera rocambolesca. Lui sa tutte le risposte, è un film davvero bello, molto complesso, che è tutto giocato sui ricordi, sui flashback. Se qualcuno se lo fosse perso, insomma, deve assolutamente recuperarlo, il film che ha trionfato agli Oscar del 2009. E veniamo, anzi torniamo all'Italia, perché nel mondo dello spettacolo, ma non solo, perché qui si sconfina nel campo della cultura popolare, persino della storia della Repubblica italiana, suscita grande commozione la scomparsa di Mike Bongiorno l'8 settembre, casualmente il giorno della liberazione, quindi per lui che aveva fatto la resistenza, era anche finito in carcere a San Vittore. Mike aveva 85 anni, è stato stroncato da un infarto a Monte Carlo. Sentiamo la sua carriera inimitabile riassunta in un minuto con Paolo Panceri. Amici ascoltatori, allegria! Impossibile confonderlo. È il marchio di fabbrica di Mike Bongiorno, un'esclamazione che è stata anche un augurio per milioni di persone e uno stile di vita per il presentatore, soprattutto nell'ultima parte della sua carriera, quella a fianco di Fiorello. Una carriera che si è interrotta ieri, dopo 60 anni di successi. Mike Bongiorno è morto a 85 anni a Monte Carlo per un infarto. Si trovava nel Principato per una breve vacanza, prima di iniziare un nuovo programma televisivo. Impossibile dar conto in poche parole della carriera di Mike Bongiorno. È stato conduttore, autore, partigiano, scrittore, scalatore e produttore. Celeberrime le gaffe con i concorrenti delle sue tantissime trasmissioni. Tra queste rischia tutto, di cui abbiamo sentito la sigla e Lascia ora doppia, hanno segnato la storia del piccolo schermo. Mike Bongiorno è stato anche uno dei pionieri della TV commerciale, con il passaggio nel 1978 dalla Rai a Telemilano, un'emittente locale di cui era editore Silvio Berlusconi, che sarebbe diventata Canale 5. E tra poche settimane Mike Bongiorno avrebbe dovuto dare avvio alla sua nuova avventura televisiva su Sky, un programma che, giocando proprio con il nome Rischia tutto, aveva chiamato Ri-Sky tutto. Qui rischio di sforare, però ci sono alcune cose che devo assolutamente ricordare ancora, oltre naturalmente il giusto tributo a Mike Bongiorno. Alla voce libri e letteratura mi viene in mente naturalmente il premio Nobel dato all'ennesimo sconosciuto Herta Müller, scrittrice tedesca, forse chissà nei 20 anni dalla caduta del muro di Berlino, mentre sicuramente l'uscita più attesa dell'anno era quella di Dan Brown con Il simbolo perduto, di cui attendiamo presto un film. Nel frattempo però, almeno in Italia, Fabio Volo ha venduto più libri di Dan Brown. Cito in rapida successione un po' di artisti, di uomini o donne dello spettacolo, del mondo della cultura, che sono scomparsi in quest'anno: Oreste Lionello il 18 febbraio, David Carradine il 3 giugno, Karl Malden il 1 luglio, Patrick Swayze, la morte del grande attore di Ghost e Dirty Dancing, stroncato da un terribile tumore, il 14 settembre, poi il 27 gennaio John Updike, grande scrittore americano, e Mino Reitano, Fernanda Pivano il 18 agosto, Alda Merini il 1 novembre, ce ne sono tantissimi, Farrah Fawcett, altra morte drammatica, il 25 giugno, praticamente nelle stesse ore di Michael Jackson. Però Marta Cagnola, voglio chiudere in bellezza con quello che è, a mio avviso, ma direi dall'avviso di tutti, indiscutibilmente il gossip dell'anno, escluso Silvio e Veronica e il loro divorzio, che è fuori categoria. Sicuramente la notizia più chiacchierata di gossip è quella dell'amore vero, presunto, architettato, chi lo sa, tra George Clooney ed Elisabetta Canalis, che tu hai anche visto dal vivo in più di un'occasione. Marta, a te l'ultima parola. Ebbene, di questo sì, speciale. Li abbiamo dovuti rincorrere in più occasioni. Non sappiamo se è vero o non è vero, ognuno fa le sue considerazioni. Certo è che hanno calcato più tappeti rossi e insomma Elisabetta Canalis pare possa riuscire davvero a impalmare George Clooney. Noi donne romantiche speriamo speriamo che sia vera questa storia, chissà. Ti sei abbastanza sbilanciata, Marta. Comunque, grazie ancora perché abbiamo fatto veramente gli ultimi minuti molto piacevoli insieme. Ti rinnovo gli auguri di buon anno. Buon anno a tutti. Allora, buon anno anche ai nostri ascoltatori. Io ringrazio Valerio Rocchetti in regia. Ricordo la mail ottavogiorno@radio24.it. Noi ci ritroviamo puntuali sabato prossimo alle 9 oppure in replica alle 23.